E quindi alla console abbiamo Mr. DJ Pizzis. Super Gagliardo DJ, yes. On the way e on the time. Benvenuti a tutti. Benvenuti amici di Runtime Radio. Siamo su Everything, la trasmissione che sostituisce di tutto un podcast, ossia il programma che abbiamo inventato io e te molto tempo fa. Programma degli affari nostri. Quindi fondamentalmente dovresti ricordartelo, ma questa cosa che non te lo ricordi un po' mi imbarazza, ma d'altronde insomma io non è che posso pretendere tutto dalla vita, Michela. E sì, è il programma dei fatti nostri, cioè nel senso da qualche volta parliamo anche di cose serie, ma prevalentemente è il programma che Cristiano Caliendo potrebbe, che ne so, gradire, perché che ne so, si parla di matrimoni, di viaggi a Dublino. E questo è un particolare, infatti in questo episodio insomma parleremo, potrebbe anche essere una puntata di Morti di Bestemmie con Alex Raccuglia e Marco Gualdi, ma in realtà... Infatti io l'avevo pensata mentre vivevo questa cosa che vivevi, nella situazione che racconteremo più avanti. Pensavo assolutamente, sono in una puntata di Morti di Bestemmie. È vero. Puntata di Morti di Bestemmie lunga 6 ore e 40 minuti. Però, voglio dire, meglio di niente. Abbiamo fatto anche podcast lunghi 6 ore noi. Beh, c'è stata gente. Vi metto solo sta parentesi, no? Tanto poi andremo avanti. C'è stata gente che, tra l'altro, ci sta ascoltando, che ha pensato subito al Magnotta. Insomma, quindi. Bene, allora, prima di tutto tanto cercate Everything su Facebook, cercate ovviamente la pagina Facebook e fate mi piace, così potrete essere sempre aggiornati quando usciamo con i nostri podcast o quando andiamo live, sempre in esclusiva su Runtime Radio, perché questa trasmissione, Michela, come ecco, si chiama? Si chiama Everything, scusate, sì. Mi sono emozionata perché tra i primi commenti abbiamo i due avventurieri che come me si sono trovati tipo Gianni e Pinotto, sì, Pinotto sì. E Gianni, va bene. Mitici avventurieri, è stato proprio amore a prima vista proprio. Vabbè, poi parliamo anche di questo, perché questa è una storia appunto di nebbie pericolose, di voli ritardati. Michela che fa un po' insomma il parassita, che ha scroccato a destra e manca, e di pizze immangiabili, perché poi uno poi chiaramente quando poi le strade si sono separate tutto è successo e noi ve lo racconteremo. Quindi abbiamo detto Everything, oppure fate anche mi piace sulla pagina di Runtime. E questo è praticamente, questa sera noi inauguriamo gli speciali di Runtime delle feste di Natale, che sarà praticamente quasi ogni sera abbiamo un live, quindi ragazzi, pensa che palle tra videogiochi, musica, Morti di Bestemmie e via dicendo, insomma ragazzi parleremo veramente un po' di ci tutto. Ci sarà anche una cosa stupenda, un crossover, lo possiamo annunciare? Ma come no, come allora, no? Ormai è ufficiale il un crossover tra Mono, cioè Mi, e MDB Summer Radio. E quindi diventa Mono Sam Mono, diventa Sam Mono, esatto. Dedicato udite a tutto il trash di Natale possibile e immaginabile. Avete presente l'antinatale dei Profilax? Ecco, preparatevi perché sarà dissagrantissimo. Ma quindi... tutti i live insomma di Runtime durante queste sere saranno tutti più o meno all'insegna dell'antinatale. Poi dopo, alla fine del programma, diremo insomma gli eventi, quelli più immediati. E io partirei subito con un brano, Michela. Sì. Tanto per anch'io scaldare, allora, un po' il motore. Tanto per rimanere in tema di umanità. Ora ci mette 20 minuti a annunciare il brano. No, e di perdita dell'umanità, perché ovviamente come poi vi spiegherò, quando decidi di affrontare un viaggio come quello che abbiamo affrontato noi, devi rinunciare a tutti i diritti umani, e quindi rimaniamo in tema di esseri umani e ascoltiamo Human. E quindi ce lo sentiamo, ci sentiamo fra pochissimo. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. to believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Allora, abbiamo ascoltato Rag & Bone Man e con la canzone Human. Se non avessi capito, l'ho detto 50 volte che eravamo umani, umani, umani. Ah, quindi Rag & Bone. Che tra l'altro credo sia irlandese, però non lo so. Ma sì, dai, qualcosa di irlandese dentro ce l'ha, tipo, che ne so, lo sbiascico dell'alcol o cose del genere, perché assolutamente si sa, no, si sa. Non vogliamo fare facile retorica o insomma della discriminazione nazionalistica, però insomma, vabbè, queste sono cose che succedono, vabbè, e capitano spesso e volentieri. Vabbè, dai, ok, nonno. Sì. Allora, è successo che mia moglie a un certo punto, tempo fa, per un motivo che poi dopo racconteremo successivamente, perché poi parleremo anche di quella cosa nello specifico, mi ha detto: vado in Irlanda a trovare Cristina. Oh, voi, chi è Cristina? Come, chi è Cristina? Cristina è l'amica sua. Ma non vi ho mai raccontato del matrimonio? Dove sta, no, Cristiano Caliendo? Non c'è. Non c'è Cristiano. Del matrimonio irlandese. Penso che anche i miei nuovi amici Eleonora e Umberto, che salutiamo, che sono in chat, che ci stanno ascoltando. Ma chi lo fa soprattutto poi, Penso che anche loro abbiano sentito parlare del matrimonio irlandese. Tante volte l'ho raccontato, insomma. Immagino. Anche perché lei è come nonna America, ti racconta una cosa, poi dopo 5 minuti si dimentica che te l'ha raccontato, si dimentica di te, si ripresenta e ti dice: ma ti ho mai raccontato del matrimonio? Comunque, in Irlanda. Comunque, vabbè, doveva andare da Cristina. Partiamo alle 6 di mattina, esco di casa e dico: ciao. No, 6, forse le 7. Da sola, poi lei è sempre una donna indipendente. Vedi, confermano, hanno sentito già il racconto del matrimonio. Immaginavo, insomma. Poi potremmo domandare quante volte. Quante volte? Ma... allora, partiamo verso le 6:30, 7. Esco di casa, saluto il maritino, dico: ciao maritino, vado a fare questo fine settimana. No, era ora che ti levavi un po' dei coglioni. No, veramente. Ma certo, sono le 7 di mattina, sabato, venerdì che era. Esco, vedo un po' di nebbia, dico: mappa, c'è un po' di nebbia, vabbè, dai. Perché la nebbia? Agli irticolli. Vabbè, ma prosegui con non c'è fare questi vuoti radiofonici che distruggono. C'è un po' di nebbia, vabbè, dai, tragitto Roma Nord, Roma Sud, e si libera il cielo, tutto limpido. Ma vedi, dai, la nebbia è andata via. Arrivo all'altezza del praticamente dell'ippodromo delle Capannelle. Perché la nebbia è come il gatto, si nasconde per fare l'agguato. Assolutamente. Assolutamente. all'ippodromo, all'altezza dell'Appia Antica, dell'ippodromo dei Capannelli, proprio una coltre di nebbia che sale, sale, sale. Boh, vabbè. Ha fatto l'agguato. Arrivo all'aeroporto, mentre il tragitto tra il parcheggio privato e l'aeroporto sale un tipo che secondo me, cioè se lo incontro penso che l'ammazzo di botte, perché secondo me è stato lui, e ci guarda e ci fa, ma voi sapete di ritardi a causa della nebbia? Io me lo guardo e dico, mamma mia, questo non ha mai viaggiato in vita sua, ma che si può fermare il mondo per un po' di nebbia? E niente, mi dicono che c'era la nuvola di Fantozzi che se l'erano portati dietro i miei amici. E niente, questo vabbè ci ha attirato a tutti quanti questa domanda, proprio ci ha attirato, si è gelato il pulmino, proprio si è gelato il pulmino. Siamo scesi, ma lo sapete di ritardi, e tutti che guardano, tutto il mondo diventa rallentatore e guardano il tizio. Allora io arrivo all'aeroporto ovviamente in anticipo, perché è risaputo che non è che puoi andare a prendere l'aereo mezz'ora prima, 40 minuti prima, no, devi stare 4 ore prima all'aeroporto, perché giustamente non si sa mai, la scissione dell'atomo, grolla il mondo, non lo so, non riesci a partire per qualsiasi cosa. Poi non la vede, ma mia moglie entra che parla, muove le braccia a casaccio, è bellissimo. Certo. E quindi arrivo queste 4 ore prima, già la folla totale a Ciampino, ho detto ammazza, un sacco di gente che va in giro sto fine settimana. Non ha capito. Ammappalo, vedi. Che storia. Bravi, andate in giro, vedi che figa, pure io vado con la mia valigetta, ho fatto, mi guardo un po' intorno, vedo che... Tanta gente c'era. Sembrava tipo di stare allo stadio, però lì per lì non mi sono accorta, cioè non ho voluto guardare la verità com'era, e soprattutto non ho voluto guardare fuori dalle finestre la nebbia che praticamente attanagliava tutto l'aeroporto. E che tipo Silent Hill praticamente. Non c'era un aereo che atterrasse nel raggio di... non c'era un aereo che atterrava. Il mondo che era sospeso in un limbo spazio-tempo, quindi stavate lì, cioè tutto era fermo, tutto era silenzioso. Sì, silenzioso, insomma, era tutto fermo. Fuori era tutto silenzioso, tu immagina, uscivi fuori sentivi il silenzio, perché la nebbia che fa? Attutisce, quindi è ancora peggio, come la neve, no? Vabbè, comunque dico, immaginiamo questo scenario a sdrubalo, questo scenario triste, sì. E ora mando un messaggio, perché voi dovete sapere che io ho il canale, noi abbiamo un canale preferenziale che poi ha dato comunque il via comunque a questo aggancio, ovvero mandiamo un messaggio al nostro caro amico Daniele. Mando un messaggio al nostro caro amico Daniele. Dobbiamo essere precisi, perché... E io dico, senti, io... Daniele che fa il controllore di volo. No, perché... Daniele fa il controllore di volo, no, insieme a sua moglie Alice, fanno tutte e due i controllori di volo. A Ciampino. Senza di loro non ci sarebbe proprio il controllo. Non ci sarebbero i controlli di volo. Ma infatti che c'è state a fare? Comunque, anche ma voi... Ma siete venuti a fare anche un po'. Anche voi, come dicevamo... Come diciamo, lavorate a Ciampino, mamma mia. Comunque, vabbè. Perché, come diceva Bombolo, pronto? Che è Ciampino? Va bene, questa la sanno un po'. Andiamo un velo pietoso. Mando un messaggio. Un altro brano. Ciao Daniele, senti, io sto partendo. Certo, vedo che c'è un bel casino, però tutte il mio aereo... inflessioni nel messaggio, cioè, sì, certo, tu quando scrivi no, ciao, non ho scritto ovviamente. Senti... Ovviamente non ho scritto, io solo messaggi parli, vocali. Giusto. Che pezzo che sentire, se vuoi colleghiamo qui lo mandiamo in radio sta cosa. Ah, guarda, veramente vi farei sentire i messaggi successivi mandati agli amici che mi aspettavano in Irlanda. Comunque mando questi messaggi, attendo risposta, e Daniele mi dice, amiche, ma dove vai con sta nebbia? ci stanno tipo 4-5 aerei che devono atterrare, non riescono a atterrare, stanno attendendo di atterrare. Dopo un po' mi riscrive, i 4-5 aerei che attendevano di atterrare hanno finito la benzina, quindi hanno pensato bene di non aspettare di precipitare più, no, ed andarsene a Fiumicino, perché gli aerei non ce l'hanno i fendinebbia, cioè Allora, gli aerei sono predisposti, da quello che ho capito, per affrontare eventuali partenze e arrivi, quindi decolli e atterraggi relativi comunque in condizioni di scarsa visibilità, mia. Ma deve essere fornito anche l'aeroporto. Okay, e quindi il problema è l'aeroporto. Il problema, cari amici, perché è l'aeroporto. Quello che sarebbe è che comunque volendo l'aereo fa il volo strumentale. Sì, volendo. Sì, infatti il problema è l'aeroporto di Ciampino. E qui io metterei un secondo brano. Sì, un brano, sì, stendiamo un velo pietoso, però ascoltiamo una delle canzoni d'amore più belle che il mitico Freak Anthony ci ha lasciato, ovvero Però Quasi. Ok, quindi vuol dire che è una lagna. È bellissima. È la lagna sicuramente. Sentiamocela fra poco. Freak Anthony. Ho visto un arcobaleno, era bellissimo, più bello di te non è possibile, però quasi. Ho mangiato un gelato, meraviglia golosa, più dolce di te non è possibile, però quasi. Baciami, fammi passeggiare sulla porcellana dei tuoi denti. Facciamo l'amore, quando facciamo l'amore. Baciami, fammi passeggiare sulla porcellana dei tuoi denti. Regalami tutti i tuoi lamenti di piacere, quando facciamo l'amore, quando facciamo l'amore. Visto un bolide fiammante, una moto velocissima, più formosa di te non è possibile, però quasi. Ho sognato di fare l'amore con Ivana Fakalot, più calda di te non è possibile, però quasi. Facciamo l'amore, quando facciamo l'amore. Baciami, fammi passeggiare sulla porcellana dei tuoi denti. Regalami tutte le tue fusa di piacere, quando facciamo l'amore. È il mitico Freak Anthony che ci manca tanto tanto tanto tanto tanto tanto. Tra l'altro consiglio, ma palle, comunque io non sapevo, è vero, che metterà, non è vero, palla. Non è vero. Ma poi cioè io sono estremamente convinto al 100% che sta canzone l'hai già passata tipo 15 volte. No, insomma, non l'ho mai passata, te l'ho fatta ascoltare 250.000 volte e nella versione che preferisco io con Luca Carboni, che è molto più bella. Comunque ah, ecco, sì, sì, ma secondo me l'hai passata Freak Anthony tutta la vita. No, non l'ho passata. Comunque vabbè, c'è la nebbia, a un certo c'è punto la nebbia. Basta, anzi parte. No, allora aspetta, perché non è così. C'è non la nebbia così. Va bene, c'è la nebbia, però perché poi tocca farla corta dopo. Sì, tocca farla corta, restringo messaggio di Daniele. No, ma guarda, hai scelto un'ora adatta per partire, perché la nebbia si sta dissolvendo e quindi tranquilla, il tuo aereo parte. Ah, ok, il mio aereo parte, l'ha detto Daniele. Il tuo aereo parte. Faccio il controllo passaporti, mi metto pronta, piazzata, là proprio prendo a carci la gente seduta a destra e manca, perché io ho l'imbarco prioritario e devo stare davanti a tutti, quindi mi metto lì davanti. E... scusatela se strilla davanti al microfono, però sì, insomma, è l'eccitazione, il ricordo le crea ancora l'eccitazione. Il ricordo dell'ansia, capito? Perdo l'aereo tipo 10 ore prima, vabbè. Sto lì, guarda questi, tutti seduti, tutti calmi, tranquilli, gente, alzatevi, dobbiamo prendere l'aereo. Però ovviamente ci stava solo i cartelli, quelli che annunciano comunque la partenza dei voli, e la finestra, bella grossa, cioè la porta d'uscita, che dava soltanto nebbia. Nebbia, ogni tanto arrivava al pulmino quello che in pratica dovrebbe trasportare lo spazzanebbia, no, arrivava al pulmino che dovrebbe trasportare i passeggeri dal gate all'aereo, arrivava e se ne andava. Dopo un po' tornava e poi se ne riandava. Eh sì, perché lui giustamente ci messo a rompi i coglioni, faccio avanti e indietro almeno, sì. Cioè questo era un po' il suo scopo. Ma questo però succedeva a noi partenti di Dublino. Ma secondo me lo sai che perché lì ci deve partenti... essere qualcuno che fa le telefonate. Oh, vai che stanno, mo se parte, vai se parte. Questo sì, riprende il fulmino, va, arriva lì e dice no, guarda, se parte, ma porca puttana, allora ritorna indietro. E poi quando ritorna indietro, guarda, stanno a partire, ritorna. E lui, insomma, faceva avanti e indietro per tenerlo occupato, sennò i sindacati poi giustamente. Sì, andiamo così avanti per tipo un'ora, quando si fanno le 11:50, no, scusate, le 10:50, che era l'ora in cui sarei dovuta partire. Oh, pronti, tutti pronti lì davanti, ragazzi, alzatevi perché qua bisogna partire, andiamo. Non si vede nessuno, tutti spariti, ma così sparite le hostess del volo di Dublino, del volo di Manchester, del volo di Londra, del volo di Bruxelles, del volo di Berlino, di tutti i voli. E se l'aeroporto di Ciampino diventa una grandissima famiglia. Là abbiamo capito che a un certo punto saremmo stati uniti per la vita per sempre, e quindi abbiamo cominciato a guardarci prima di tutto tra facce, tra persone, e a scegliere praticamente quelli che ci stavano più simpatici, perché abbiamo detto qua non se ne esce più. Quindi se c'ero io non si avvicina a nessuno, perché ovviamente è notorio che io non posso stare simpatico a nessuno come l'altro non stanno simpatici a me. Ma come sappiamo, nei momenti di necessità l'uomo si unisce. Cioè, nel senso, si aggrega, sì, in qualche maniera, sì. E come è noto, quando ci sono momenti di difficoltà le hostess si danno, perché le hostess si danno e rimane soltanto una povera annunciatrice. Una povera annunciatrice che ovviamente, cioè, devo fare un preambolo. Non c'è, diciamo, quelli della Rai una volta. Sì, le tipe che comunque chiamano le persone che si sono perse in giro, no? O comunque quelli che chiamano i voli, che richiamano i passeggeri che sono in ritardo, eccetera. Cominciano a prendere di mira sta povera Crista, che praticamente stava lì per annunciare e disannunciare i voli e per richiamare l'attenzione dei vari personaggi dispersi all'interno dell'aeroporto, perché ormai l'aeroporto era diventato lo stadio olimpico. E la gente tirava fuori i panini con la porchetta, cioè avevamo capito che qua non si vedeva neanche un aereo atterrare o decollare, quindi abbiamo detto vabbè, vediamo che succede. Tra l'altro, nel frattempo, sempre le voci di corridoio, cioè Daniele mi mandava i messaggi e mi diceva: il tuo aereo parte alle 2:15 da Fiumicino. Come da Fiumicino? Ma che dici? Sì, da Fiumicino, il tuo aereo è atterrato a Fiumicino, parte da Fiumicino, quindi non lo so, se vuoi ti venga a prendere e ti porta a Fiumicino. Ecco, mi hanno ricordato una cosa importantissima. Riprendiamo la storia delle povere criste che venivano molestate dalle richieste di annunci, perché veramente abbiamo sentito chiamare di tutto. Abbiamo sentito chiamare Francesco Treccapelli, ma perché proprio eravamo piegati in due dalle risate. E una certa Liliana, che vattela un po' a cercare, Liliana e basta, cioè proprio Liliana E basta, forse era il cognome, ma non lo tu so. Tu dici che Liliana lo sa che lei è lei, quindi che te frega a te del cognome? E soprattutto il signor London Mister, cioè il signor London Mister che è stato più volte richiamato. Io perché poi voglio specificare che mia moglie questa cosa me l'ha raccontata 6 volte come de sua, ma poi ogni volta pretendeva che io ridessi a questa cosa, perché certe risate tu non puoi capire, chiaramente loro ridevano per la disperazione, sì, una cosa del genere non può far ridere, no? Cioè, fa ridere tantissimo, ma non fa ridere per niente, ma allora, non no, ma come London Mister non mi fa ridere, che te devo fare, non mi fa ridere. Comunque a un certo punto ci dicono, arriva qualcuno, arriva una povera crista che veramente... Sempre tutti... pori cristista. Sì, sì, no, una povera crista, una hostess, penso che è sottopagata, è frustata, uccisa dall'entourage di Ryanair, e ci dicono... Vabbè, questo non sarebbe neanche tanto strano, tutto sommato, E ci dicono, ci spiegano che ci trasferiranno a Fiumicino per farci partire alle 2:15, 2:30, vabbè, comunque cosa impossibile, ci siamo detti, è già l'una, come faremo a, è già l'1:30, come faremo ad arrivare alle 2:15, a partire alle 2:15, e soprattutto ci spiegano che ci faranno uscire dal gate, quindi prenderemo quel famoso pulmino e usciremo dal gate, il pulmino ci porterà praticamente, salutiamo Marco, ciao Marco, il pulmino praticamente ci porterà agli arrivi. I poveri cristi, sempre cristi loro, che avevano le valigie al check-in, che avevano fatto il check-in e avevano consegnato le valigie, devono riprendere le valigie e salire sull'autobus il prima possibile e prendere praticamente il prima possibile, prendere l'autobus per Fiumicino e poi recarsi al gate di Fiumicino, rifare tutti i controlli, rifare il check-in, eccetera eccetera. Comunque questa cosa dello vi spostiamo da questa parte a quest'altra lo hanno detto pure a quelli che li hanno portati a Auschwitz, quindi insomma diciamo ma che, stavamo là cioè, diciamo la deportazione de massa, il range era quello, cioè io vi dico solo che non avendo il bagaglio al check-in, perché stavo 2 giorni e non c'avevo bisogno, sono andata prima degli altri, quindi ho fatto molto velocemente e sono arrivata praticamente all'approdo dei pullman e la tipa praticamente mi ha guardato e mi ha detto: lei è uscita di sua volontà, chi l'ha portata fuori? Quindi cioè scene proprio pazze. Questo tu sei uscita fuori? No, io sono uscita perché ci ha portato fuori il tipo. No, perché mi fa sempre vergognante, posso andare mai in giro, cioè, ma a Prodo del Re? Sì, ovviamente a Prodo del Re. Tra l'altro poi dopo cioè, volevo fare complimenti ai miei amici che sono andati in giro per l'Irlanda proprio alla ricerca. Ma questo non ce ne può fregare di meno, poi ne parliamo dopo. Dopo, adesso ancora non siamo arrivati in Irlanda, dopo okay. Siamo arrivati in Irlanda. Adesso, insomma, alla fine, perché questo, tutta questa questione, io a mezzogiorno mi aspettavo che fosse arrivata e che mi arrivava il messaggio e io non sapevo niente tutto. E tutti gli amici che mi aspettavano a Dublino con la birra, dai che è pronta la Guinness, pranziamo insieme, chiaramente alla festival del luogo comune in Irlanda stanno in aeroporto con la birra aspetta a lei, capito? Ovviamente. Quindi, insomma, è chiaro tutto questo, insomma, perché poi dopo fare luoghi comuni e banalità assortite e vabbè, insomma, alla fine, perché poi questo quello che ho capito, a un certo punto mi arriva sta telefonata tipo verso le 7 di sera, può essere. Allora si fanno perché le 3:30 ora che io adesso non voglio dire, capisco il desiderio di partire, no, perché lo posso anche capire, però io, a me mi era già passato dopo un paio d'ore il desiderio di partire, io avrei sbroccato in un modo che penso un po' che avrebbero sbroccato. Beh sì, infatti dopo l'ilarità, anche perché quello che ho capito io è che voi non ci avevate proprio il diritto di andarvene, cioè no, sembra che ci abbiano spiegato che non era assolutamente il caso di uscire, dato che eravamo registrati e che poi ci avrebbero dovuto, ma anche sti cazzi dicono quelli in Francia ci avrebbero aspettato, cioè tipo ti immagini dopo 10 ore aspettiamo la signora De Paola Michela che arriva, comunque tutto più. Questo alla fine che comunque poi è un problema degli aeroporti di Roma, sì, tutto questo alle 3:30 arriviamo tutti sia il nostro volo che gli altri voli, arriviamo, cioè roba che dovevamo partire alle 10.50 da Ciampino, arriviamo alle 3.30 a Fiumicino. Arriviamo alle 3.30 a Fiumicino, ci richiamo tutti al gate, corriamo come matti per arrivare al gate. Lo schermo, bellissimo schermo, annuncia alle ore 16 partenza e imbarco alle ore 15.40. Oh, tutti meravigliati là che guardavamo sto schermo come fosse Dio. Le 4, nessuno si fa vivo. Le 4.30, nessuno si fa vivo. Le 4.40, lo schermo cambia orario. Imbarco alle 4. Un porno così, giusto per distrarre la gente. Ma sarebbe stato tipo, meglio. Imbarco... 6 giga e le bionde. Imbarco alle 16.40, partenza alle ore 17. Ok. Nel frattempo la gente comincia a perdere di senno. A mettersi seduta su a ricaricare telefonini e tablet e quant'altro sulle scrivanie delle hostess. Beh, certo, del gate. Poi scatta l'anarchia a un certo punto. La gente si siede sulle scrivanie del gate, sulle sedie delle hostess. Tanto non c'era nessuno. Beh, lei a questo punto. E squilla il telefono. Ah, okay, facciamo. Dato che qui adesso poi entriamo, insomma, sì, nella parte di anarchia e poi soprattutto poi l'imbarco, perché prima o poi penso che imbarcherei. Da questo punto ci spariamo il terzo brano, così almeno ce lo leviamo dai zebedei, che sarà una palla anche questo. No, questa no. Allora annunciacela, così almeno ascoltiamo i The Killers con Somebody Told Me. Non so perché, ma qualcosa mi dice che no, l'inizio lo prometto. A tra poco. Just to know your name. E quindi abbiamo ascoltato i The Killers, ci siamo mossi e non ci siamo annoiati, giusto? No, no, strano infatti, perché alla fine è successo che si poteva fare, dai, si poteva fare, e quindi sono contento. Vabbè, quindi praticamente a un certo punto è scattata sta anarchia suprema. È scattata l'anarchia suprema, squilla il telefono. Squilla il telefono una volta, tutti si guardano e dicono chi è, chi non è, chi è, chi non è. Ci accorgiamo che è il... Lì però ci stava bene, eh. Cioè lì ci sta bene, oggettivamente, diciamo, squilla il telefono, uno risponde, pronto? Ancora, no. Allora, squilla il telefono e praticamente... Non è Bombolo. Uno, no, non era Bombolo, risponde uno dei passeggeri, anche bello incazzato, e ci dice, praticamente loro chiedono dall'altra parte del telefono, è l'hostess, siete pronti a partire? E lui risponde, no, noi siamo i passeggeri, venite qui, non c'è nessuno, venite a prenderci, venite qui. E da lì praticamente il caos più totale, la gente che ha preso in mano i microfoni, tra l'altro anche Umberto, insomma, era pronto là col il secondo puntato sulla parte del Magnotta in cui c'era ovviamente la... Non guardare me perché io non ti stavo proprio ascoltando in questo momento, sto facendo i fattacci. Avevamo visto a che minuto stava proprio l'exploit della famosa registrazione del Magnotta, perché qualora il microfono... Quello mi scrive i terroristi, sì. Sì. Però tu queste cose me le dovevi dire, io preparavo degli assets per questa trasmissione. Qualora insomma il microfono fosse tornato in mano nostra, avremmo potuto mettere una bella bestemmia, gli stava tutta. Comunque a un certo punto qualcuno chiama la polizia e... Non c'era bisogno del Magnotta comunque per fare sta cosa, l'ho detto fra noi poi. No, diciamo sarebbe stato più poetico. Più spettacolare. No? E qualcuno chiama la polizia, arriva un povero Cristo dell'aeroporto di Fiumicino, cioè tenete conto che praticamente tre voli, eravamo tre gate in tre voli diversi che aspettavano di partire da ore senza nessuna notizia, solo con un cartello che cambiava praticamente ogni ora, cambiava orario, vabbè. Arriva la polizia. Voglio dire, ma non l'hai capito che te sto a coglionare? Questo era così, para. E vabbè, e comunque alla fine arriva la polizia, arrivano i carabinieri, anche perché è sequestro di persona questo. Arriva una poveraccia, ma poi si è capito, cioè al di là della nebbia che va portata, adesso ti spiego. Okay. Arriva una povera crista di hostess di terra che ci fa salire su, dice, salve, sono la terza povera crista seconda, questa è la seconda, che poi non capiamo che faceva, perché andava avanti e dietro fra due computer, non sapeva neanche lei quello che doveva fare, era spaventatissima. Comunque scortati da carabinieri e polizia saliamo tutti, tempi di linciaggio, quindi ci sta insomma che era spaventata. Sì, a voglia. Saliamo tutti sull'aereo, io per prima ovviamente, perché avevo l'imbarco prioritario. Ci tengo a dirlo perché non mi era mai successo. Ma regaliamo soldi a quella bella compagnia di Ryanair. E saliamo sull'aereo e ci accomodiamo tutti. E già vedo che l'hostess si stava incazzando brutto. Allora, va bene. Che poi vi faccio presente, loro entrano in aereo quando doveva essere già tornata a casa mia moglie. Sì, perché, praticamente sono andata, sono arrivata e sono ripartita. E ho detto, che fai? Non torni a casa? E dice, no, sto a partire adesso perché... Vabbè. Saliamo sull'aereo e l'hostess incavolata nera prova a spiegare ai malcapitati passeggeri, che ovviamente ormai eravamo diventati tutti uniti, tutti una cosa sola, che anche loro erano rimasti 7 ore. Abbiamo scoperto che il pilota e le hostess sono rimasti 7 ore come noi ad attendere praticamente l'arrivo dei passeggeri. Loro erano pronti a partire già da 7 ore, però non c'era personale da terra che ci potesse scortare praticamente dal gate all'aereo, e quindi per questo motivo siamo rimasti tutti bloccati. Ma a questo punto secondo me uno dalla fine dell'aereo si alzava in piedi e diceva sti cazzi, capito, una cosa del genere. No, è successo qualcosa del genere, tanto che il... Perché io mi ricordo una volta siamo andati a vedere un film io e mia moglie che si chiama Il Venne il Giorno, che è forse il più brutto film di Shyamalan. E che vabbè, questo film, a parte della bruttezza insomma indicibile degli attori e del film in sé, anche dal punto di vista registico, cioè a un certo punto ci devo confessare una cosa: io ho mangiato il tiramisù col farmacista e a un certo punto dal fondo della sala, ma vaffanculo, tipo ridateceli i soldi, perché veramente è un film deprecabile. E penso che la stessa cosa sia successa anche, sì, praticamente sì, tant'è che la perché poi ricordiamo, scusa, stai raccontando bene, però voglio dire, ricordiamo che poi Ryanair è riconosciuta a livello internazionale, anzi addirittura c'è, cioè, il Nobel per la pace ha ricevuto più volte, perché è una delle compagnie che mette più a suo agio, ovviamente, la gente non crea attriti, insomma, non dopo è che... Airflot è la migliore compagnia del mondo, è sicuramente Ryanair. Tant'è che in alcuni determinati casi, su alcuni articoli, vengono anche tacciati per razzisti, voglio dire, come a livello proprio politico. Sì, insomma, certo, se sei ciccia come me o t'attacchi oppure... Ma io mi ricordo c'era stato pure un problema con una persona sulla sedia a rotelle che l'hanno dovuto far scendere perché... No, lì si sono evoluti, c'era un'invalida che era vicina, seduta a me, vicino a me... A te è giusto, insomma, perché, voglio dire, no, così facete compagnia, insomma... Che cosa brutta. Ma in effetti sì, io la cancellerei. Dov'è che si può cancellare? Non si può cancellare, sei in diretta. Scusate, però purtroppo La bacerezza natalizia che ogni tanto esce fuori. Ma che natalizia, è proprio il cervello bacato. Comunque, dicevo, l'hostess se ne l'abbiamo vista tutta piccata che correva nella sala del... nel salone delle feste, no, che è la sala? Come si chiama? La cabina di pilotaggio, cabina forse. Pilotaggio. No, e a un certo punto si sente il pilota che annuncia in inglese: ci dice, ragazzi, se non la finite di insultare le hostess, il personale di bordo, tipo ullele, ullala, faccela toccare. Queste cose qua succedevano. Io non ho capito qual era il. No, tutti ovviamente non potendosi sfogare con nessuno, perché non abbiamo visto con qualcuno personale, dipende, è chiaro, se la prendevano con le hostess, quindi giusto, come si avvicinavano le hostess, li buttacci tu, cioè, sta ragazzi, troia, vabbè, capito? Quindi... sono belle cose che io, peccato che me la so persa. Si sentiva il pilota che minacciava praticamente di atterrare in un qualsiasi aeroporto disponibile, chiamare i carabinieri, così a casaccia, chiamare le guardie di non so quale paese, insomma, è stato il momento più esilarante, uno dei momenti più esilaranti di questo viaggio, insomma. Diciamo che poi a un certo punto siamo partiti e io vi lascio immaginare i messaggi che ho lasciato ai miei amici, perché poi ogni ora gli dicevo: ok, fra un'ora parto, quindi pronti per pranzo, pronti per la merenda, pronti per quello, pronti per quell'altro. Praticamente alla fine siamo arrivati tutti quanti alle 9:30 circa, orario irlandese, quindi credo che noi siamo arrivati anche più tardi, vabbè, comunque non lo so, siamo arrivati alle 9:30 circa. Che l'orario irlandese, ricordiamo, la sera va un po' più lento, cespica un po', zoppica, perché è ubriaco, quindi... E io devo fare una parentesi, io ringrazio questi ragazzi che ho conosciuto, ovvero Eleonora e Umberto, perché allora, prima di tutto mi hanno pagato qualsiasi cosa, quindi sono in debito con che loro, schifo, di guarda, questa cosa proprio, che schifo, succhi d'arancia, vani, proprio la sciacallaggine, ma è una cosa proprio incredibile, quindi mi scuso a nome di mia moglie, guarda, mi scuso, mi sento in dovere di scusarmi. Se venite vi offro tutto quello che è di sì più. Venite voi anche i vostri 5 cani, li aspettiamo tutti. No, i 5 cani no, così si mangiano il gatto. 5 cani, mi dispiace, io vi voglio bene anche se non vi conosco. Ma li no, possiamo portare al parco, insomma. E poi soprattutto, cioè, loro sono stati fantastici, e soprattutto io ho capito che doveva essere comunque feeling a prima vista. Cioè, ragazzi, questi due ragazzi se ne andavano a trovare amici o parenti che vivevano in Irlanda, quindi come me, ma soprattutto approfittavano per girare l'Irlanda del nord alla ricerca, anche loro sono felici di averlo fatto e di averci conosciuto, avermi conosciuta. Sì, anche perché se avesse conosciuto anche me non l'avreste detto questo. Ecco, bravo. Alla ricerca dei, dei posti, comunque delle chicche. Ah, del sì, beh, questo mi ha fatto veramente molto piacere. Voglio precisare una cosa su questo. Mia moglie ha detto: guarda, guarda, ci hanno mandato il pezzo del Trono di Spade. Guarda, guarda la location. Ma che è in sasso? Cioè. Cioè, almeno spiegami di che si tratta. Cioè, infatti, ci hanno mandato anche le spiegazioni. Guarda, guarda, guarda, guarda, cioè, questo è il Trono di Spade. Guarda, è un bosco, cioè, è un bosco, può essere pure carta cieca. Perdonatelo, cioè. Perdonatelo. Capito? Ragazzi, su, per cortesia, sono buoni tutti, insomma, di che sono nelle location del Trono di Spade. No, bravi, bravi, avete fatto bene e vi ruberemo qualche idea. Quindi presto, speriamo presto di incontrarci. Gli devi rubare l'altro po', già gli hai rubato tutte le cose che ti hanno offerto. Perché no, io offrirò qualcosa e ruberò le idee. Hai rubato la generosità della gente e a questo punto io direi che, insomma, niente, sì, nel frattempo si è spenta la console. Ovviamente quindi... ti dicono, non è notato i dettagli, giustamente. Però, no, io non però io spero che adesso che loro, che abbiamo sdoganato questa cosa della radio, dato che noi faremo sicuramente uno speciale quando ci sarà il non vedo per quale ragione spade. Ma lo faremo, va bene, va bene. Non ci sarà il nuovo Trono di Spade? Come no? Ah, è vero, sì, ma non so se faremo MDB come abbiamo fatto lo scorso anno. Vedremo. Ma probabilmente qualcosa la faremo, certo. Naturalmente il Trono di Spade oramai è un must di Runtime Radio. Sentite come ho detto benissimo. E vabbè, quindi praticamente poi siete partiti, insultavano, quello minacciava di atterrare qualsiasi tipo di... Io vorrei raccontare una cosa importante, perché noi, e qui io mi faccio una domanda, perché mi faccio una domanda e faccio una domanda anche a voi, magari anche ai due amici tuoi, insomma, che con cui hai condiviso questo viaggio, che abbiamo provato diverse compagnie low cost a livello europeo. Per esempio abbiamo provato Ryanair, che si sa, c'era un tempo che girava la leggenda che Ryanair voleva fare le poltrone per stare in piedi, cioè che così stipava più gente, no? Che ti appoggiavi e ti ci legavi. Ma secondo me lo voleva fare veramente. Pure secondo me, cioè, ho sempre avuto questa sensazione. E si sa che Ryanair, insomma, tutto può essere tranne che, insomma, la cortesia del servizio, no? Però dice, vabbè, paghi poco. Però questo non è una giustificazione, perché per esempio c'era Germanwings, che ha i stessi costi più o meno di Ryanair. No, forse un po' di più. Forse un po' di più, però voglio dire, un po' di più che alla fine lo accetti per quello che ti danno indietro. Innanzitutto, io se sono un po' cicciotto non mi devo sentire un menomato, invalido, infelice della faccia dell'umanità, perché la cinta non mi arriva. E poi quando ti dici scusa, mi dà l'estensione per la cinta, questo ciccione qui, l'estensione, la cinta, mortacci sua. E questo, insomma, bisogna riconoscere che da questo momento. Mentre che Germanwings, ti arrivava proprio tranquilla. Oppure comunque, se ti serviva qualcosa, con discrezione tipicamente teutonica, alla fine. Vabbè, dai, ma pure Welling è come. Se no, Welling però Welling è come Ryanair, ma almeno ridono. Ridono. Quello che abbiamo fatto con Welling, le hostess e il pilota erano ubriachi, che ridevano. Eravamo terrorizzati di questo. Di questo volo, però poi alla fine il volo è arrivato a termine, e mentre che l'aereo faceva un po' così, però insomma alla fine siamo arrivati. Quindi io mi domando perché, e qui adesso ci arriveranno le querele, ma perché viaggiare con Ryanair? Perché, come abbiamo commentato durante... Secondo me ormai è diventato un po' un mito sto durante fatto. Durante tutta l'attesa, tu sai che quando viaggi con Ryanair devi rinunciare a qualsiasi diritto umano, ma sovrumano, ho capito, qualsiasi cosa. Ma perché? Cioè, nel senso, qual è perché, il motivo? Chiediamolo ai tuoi amici. Perché viaggiare con Ryanair? È un'esperienza che va vissuta. Ma l'esperienza l'hai fatta una volta, l'esperienza, perché reiterare questo abominio? È perché non puoi farne a meno, Ma anche... Chivese, come dicono in francese. A questo punto io mando l'altro brano, poi parliamo un attimo di Irlanda un secondo, perché poi giustamente lei è stata lì, però prima di parlare il perché siamo parliamo un attimo di quello che hai mangiato e hai visto mangiare, che è una cosa importante, oltre a quello che avete bevuto, perché chiaramente in Irlanda. Allora, no, intanto chiudiamo intanto il discorso, dicendo che non è, cioè, il problema è stato Ryanair, perché ha gestito malissimo questa situazione, e speriamo... No, lo so che il problema non era di Ryanair, però comunque poi Ryanair ci mette il suo. Il problema è l'aeroporto di Ciampino, che sembra che sia l'unico aeroporto in Europa, o uno dei pochi aeroporti in Europa, che non è attrezzato per far fronte a una condizione atmosferica come quella che, che si è presentata. Non è, non è una prassi, poi che è ovvio che il clima cambia, siamo diventati un paese tropicale, però insomma non è una prassi. Io manderei questo brano, sì, a questo punto. Sì, che è dedicata alle hostess che hanno dovuto affrontare questo viaggio. E ascoltiamo Caparezza insieme, oddio non mi viene, comunque ascoltiamo La fitta sassaiola dell'ingiuria. Ok, così intanto ti informi. Angelo Branduardi. Ah ecco, ti informi e poi vediamo insomma di parlarne. A tra poco. Inversi su fogli sparsi nei capoversi dei giorni persi nei miei rimorsi, che cosa c'è da aspettarsi da chi come me non sa adeguarsi a sette mafiette, etichette, se tutti fanno lui smette, chi ma non mette le tette della scultura ne ignora l'amore e la cura, ciocca dopo ciocca mi sono fatto sta capigliatura, che non tirano tra le mura, non ho paura, C.A.P. hanno fregatura, monnezza pura, senti che attrezzatura è la mistura che infuria nella fitta sassaiola dell'ingiuria. Ovviamente nella parte finale ero io che cantavo, uguale, no? Insomma, come smentirci? Allora, intanto... un pochetto sì, uguale identica. Intanto volevo precisare... voglio fare una precisazione, sì. La faccio io prima, sì. Perché poi dopo la fai tu. Però dico, questa era riconosciuta a livello proprio internazionale, Runtime Radio, la radio non solo kick, come la radio del heavy metal, del... E tu mi stai a mettere Branduardi, insomma... Ho messo Caparezza! Capisci che io, che sono il direttore della radio, devo fare in qualche modo, devo intervenire in questa maniera, devo punire in qualche modo, insomma, quindi qualche cosa ne devo inventare. Da domani... nelle musiche, nelle trasmissioni di Michela solo musica gore, perché... ecco. Comunque Allora, intanto io voglio fare una precisazione per i ragazzi che ci hanno mandato le foto dei luoghi. Simone, pentiti. Mi sono pentito. Anzi, domani vi mando una foto di un telefilm importantissimo, The Lost. Vi manderò delle location The Lost. Così, il prossimo viaggio ovviamente con Ryanair. Ah, perché poi ragazzi... No, ma io l'ho già fatta. Io vi devo mandare. Dare uno scoop. Io quando ovviamente ho visto questa notizia, ho pensato subito a Eleonora Umberto. Gli ho mandato, gli ho linkato il tutto. Gli ho detto ci vediamo nel 2017 a Bergamo, perché mi sembra che è da lì che partirà il primo aereo di Ryanair per New York. Cioè, il viaggio è finito proprio. Penso proprio di no. Ma no, no, non è una questione di infinito. Cioè, ma, cioè tu un viaggio per New York con la Ryanair? No, cioè, mi spiace. Vado con la nave piuttosto. Quindi, vado sulla nave, mi metto sulla poppa della nave e faccio. Belle cose, proprio, belle scene. Vabbè, andiamo avanti. Allora, con i miei folti capelli al vento. Come ci dice Marco Funne, lo spirito irlandese è quello. E quindi, quando sono arrivata, qualsiasi ora era, ormai erano tutti stufi da aspettarmi. E ci ho trovato solo la mia carissima amica Cristina, immersa nel vomito, chiaramente. No, vabbè, il suo stesso vomito. A un certo punto lei stava a fare le cose sue e ha detto: senti, fa una cosa, quando stai a partire per davvero, che proprio l'aereo è partito, mi mandi un messaggio e mi dici l'aereo sta per decollare. E quindi lei mi aspettava all'aeroporto, e lì poi ci siamo salutati con i ragazzi e tutto quanto, e loro hanno proseguito per il loro tour, e io sono andata praticamente a stare prima di tutto da Lindsay, una delle nostre amiche che abita praticamente in mezzo a nulla tra le vacche. Le nostre amiche, cioè, vabbè. Qui diamo degli amici a sbafo, a beh, chiunque, però mi ha dato ospitalità, è stata bravissima, brava, è stata brava, gentilissima, Lindsay, e soprattutto mi aspettava piena di alcol e di felicità e di pizze surgelate con la schifezza sopra più schifezza, cioè, ecco, parliamo di questa cosa. Le pizze surgelate. Interessante sta pizza surgelata. No, mi interessa, perché voglio capire dove arriva il male irlandese. Diciamo che io ho chiesto qualcosa da mangiare perché ce la facevo più, perché sennò loro bevevano. E poi si è addormita, chiaramente. Sì, sì. Bevevano, loro sono stoiche, quindi il cibo. Non sono alcolizzate, è diverso. Sì. Cioè. E quindi abbiamo cucinato queste pizze con dentro chorizo, patatine fritte, curry, qualcosa di simile a... Ma cioè, era proprio così nella confezione. Non c'era l'ananas, perché Cristina dice sempre che si mangia la pizza. No, l'ananas no, non c'era. Con l'ananas. No, l'ananas non c'era, per fortuna. Dice, che ne so, cioccolato e peperoni, cose a casaccio. Peperoni, c'erano i peperoni, c'era chorizo. C'era tutto dentro, tutto, cioè, come mangiasse... Chorizo chi è, amico tuo? Ciao. Chorizo è un salame spagnolo. Forse è chorizo. Sì, chorizo. No, ciao riso. Ciao riso. Ciarone. E comunque. Ma questi tuoi amici che sono andati in Irlanda, di dove sono? Così, giusto? Di Albano. Ah, Albano, sono dei castelli. E tra l'altro io gli ho detto a lui, a me mi sembrava di averlo già visto, io credo di averlo visto al pub di Frescati, di Vincenzo. Alla luna salutiamo nera, Vincenzo. La luna morta, là, come si chiama? La mezzaluna. Ah, è vero, la luna nera, la luna sta nera. Albano. No, è vero. Non c'è più oramai da diverso tempo. Vabbè, insomma, quindi allora... Vabbè, a parte l'alcol che tu sicuramente avrai assunto relativamente, perché no, secondo me troppo più. 3 minuti di conversazione. Sì, perché questo succede così a casa normalmente, figurati dopo una giornata. Sì, sì, più o meno stavo così. E vabbè, abbiamo bevuto, chiacchierato, e a un certo punto ho detto: ragazzi, non mi date qualcosa da mangiare, non vi capisco neanche, perché ovviamente parlavano tutti inglese, e stai lì a decifrarli col mal di testa e la stanchezza. E loro: pronti, festeggiamo, ole ole ole. Io dopo un po' sono morta. E loro se ne sono fregati, chiaramente, perché la loro necessità primaria è quella del bere, non è che... Credo di sì, ecco. Quanto sei becero. Comunque abbiamo proseguito questo allegro weekend. Il giorno dopo ho incontrato altri miei amici che vivono lì. Siamo stati in un paesino bellissimo sul mare, ma soprattutto poi la sera abbiamo praticamente fatto quello che avremmo dovuto fare già dal mio arrivo, eccetera, che era il motivo del viaggio. Io mi vergogno a dirlo, però purtroppo il motivo del viaggio, ovvero la scusa, era quella che avremmo voluto vedere insieme le nuove puntate di Una mamma per amica. Quindi, dato che una si trovava... Avvocato, scusi, domani se posso venire? No, sì, dobbiamo... Sì, qui, sì, la separazione, sì, grazie, domani alle 10, ok, grazie. No, continua, che mi interessa quello che dici. Raga, che vi devo fare? Purtroppo quello è il male comune, insomma. E volevamo vedere le nuove puntate... Il male comune a chi? Il male... tuo, no? Il male mio comune. Male, volevo vedere le Gilmore Girls con Gilmore Girls con quelle che in Italia amica. Si chiama Una mamma per amica. Una mamma per amica. Quindi stendiamo un velo pietoso. Vabbè, comunque alla fine diciamo che a un certo punto torniamo al mangiare, che tu la sera dopo ti sei mangiata un fish and chips buono. No, ho mangiato a pranzo il giorno dopo un fish and chips sul mare buono. Quindi a Skerries siamo stati in un ristorante proprio sulla riva del mare, buonissimo il pesce. E soprattutto Skerries è una cittadina che consiglio tantissimo perché è bellissima. Ci hanno girato il Trono delle Spade, lo sapevi? Non credo. Comunque, quanto sei simpatico, veramente. Sono un taglio di uomo e questo me lo dovete riconoscere. La mattina invece l'amica tua si è mangiata. Lindsay ha fatto colazione ancora in pieno hangover, no? Sì. Quindi stavi lì. Pizza, allora, pane e polpette, yogurt magro. Insomma, niente, spaghetti. No, scusa, pasta e polpette, sì. Pasta non e polpette spaghetti. O yogurt magro, che schifo. Yogurt magro, oddio, sapete, non lo so, però... E morte anche. E io me la guardavo in un modo proprio così, e lei infatti a certo punto ha detto: perché mi guardi male, che cosa ho fatto? Io non ti posso vedere mangiare sta roba, non ce la posso fare. E comunque datemi il cornetto con la Nutella, era quello, sì. Un po' quello che no, lei ha tirato fuori dei biscotti alla cannella. Che vuoi schifo. Biscotti? No, non mangerò, non farò colazione. Comunque vabbè, loro sono un po' così, vivono la vita loca, si sentono pieni di alcol e di allegria e di energia. Vabbè, allora a questo punto facciamo un altro brano e poi mi parli di queste Gilmore Girls a questo punto. Ok, anche, insomma, se proprio dobbiamo. No, pure secondo me abbastanza. Non dovremmo, però purtroppo dobbiamo perché l'hai fatto e... Fatto. E ci dovremo vergognare, quindi vabbè, lo dici dopo qual è il brano, dai, a questo punto lo lanciamo, sentiamo già da subito che è una palla e quindi a fra poco. Watching Quindi abbiamo ascoltato i Kings of Leon, che è un gruppo che avrei voluto portare su Mono, ma che poi ho dovuto... Mare Leone, E certo, Re Leone, che ha dovuto comunque scegliere di non portare in questo momento perché devo studiarmi bene il nuovo album che è appena uscito. Infatti, quindi studia. Presto arriveranno anche loro. Poi non ci domandiamo perché Mono non lo ascoltano, insomma, poi dopo, però, insomma, va bene. Perché non lo ascoltano? Ah, sì, ma scherzo. Senti, allora, Gilmore's Girl, quindi una mamma per amica, vent'anni dopo. Dove la mamma è stupenda. È rimane sempre bella. Bombabile proprio riccamente, sì, proprio la MILF per definizione. La figlia faceva schifo prima, adesso insomma non è che è migliorata molto, insomma. No, è peggiorata se vogliamo, insomma. E che cosa dire? Un omaggio a quello che è stato comunque il successo degli ultimi milioni di anni. Degli ultimi 15 anni, perché comunque, dai, volente o nolente, non credo che non ci sia neanche una persona che non ha mai visto una puntata di Gilmore's Girl. Non è lo stata so. una serie carina, sì, non male, sì. Perché insomma, secondo me addirittura è stata superiore a quello che i produttori stessi si aspettavano. Sì, che si aspettavano, infatti l'hanno tirata lunga. Questo omaggio comunque ci stava e è stato godibile. Ne sentivamo il bisogno? No, però... A voglia, ma io dai. Sempre, sono anche riguardato quando sono tornata, quindi insomma, è stato veramente godibile come omaggio e ci stava, però ha strizzato un po' l'occhio al... vabbè, quasi... Ci facciamo la stagione 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quasi la rigoglio, insomma. Sì, perché Netflix ha voluto tastare il terreno con questa produzione di 4 puntate speciali. Ha tastato il terreno e ha cercato di capire come buttava, e credo che abbia avuto un successo incredibile, anche perché comunque il marketing c'è stato prima, lo schieramento dei vari team Dean, come si chiamavano gli altri due, non mi ricordo più, non so di cosa vabbè parli. Comunque dei vari ragazzi, insomma, con chi ti schieravi tra i tre contendenti all'amore di Lorelai. Ma del Lorelai l'unico era Luke. No, di Rory, scusate. Ah, di Rory, vabbè, sti cazzi. Cioè, veramente io penso che il personaggio non all'altezza dell'altro personaggio, cioè proprio, ma non lo è mai stato, cioè, forse anche volutamente, però cioè, voglio dire, l'imbecille che per essere simile alla madre doveva fare tutte le scelte sbagliate nella sua vita. E veramente non l'ho mai capito, cioè proprio non, ma forse perché non so femmina e quindi non posso arrivare a capirlo, però insomma, vabbè, per me comunque quel telefilm si regge perché c'è Luke, secondo me regge tutto, perché un po' Luke so anche io pure sono un po' Luke, dai, così. Oggi sei Luke. Sono un po', vabbè, ok, soprattutto perché faccio gli hamburger uguali, ovviamente identici, anche meglio. Ma certo, ma che stai scherzando? Perché ci metto il gourmet dentro. Il gourmet. Vabbè, comunque... No, figo comunque il personaggio di Luke che si ostina ancora oggi ad essere molto molto antitecnologico e quindi diciamo così... Le piccole scene in cui lui dà delle password della wifi totalmente sbagliate proprio perché non vuole che la gente nel suo locale acceda ad internet e si spenga il cervello e smetta di conversare, e soprattutto non sarebbe più facile non mettere la wifi, per esempio? No, sarebbe stato troppo... Eh no, perché lui la wifi ce l'aveva, non lo so, vabbè, comunque questa è la scena. E soprattutto grande assente il personaggio di Suki che appare soltanto alla fine, perché sembrerebbe che... Perché lui stava a fare i Ghostbusters. Che sia stata impegnata a fare i Ghostbusters. No, sembrerebbe, stava a fare i Ghostbusters e a un certo punto dicevo... Io guadagno tanti soldi a fare i Ghostbusters e adesso ritorni nel dimenticatoio dal quale sei venuta, insomma. Sì, Sì. È molto molto carino, io lo consiglio comunque come visione leggera magari durante il Natale, durante i pomeriggi, i noiosi pomeriggi di Natale insieme ai parenti. E non so, sinceramente il finale strizza l'occhio, comunque ha un seguito, quindi... Ma speriamo anche di no, però, dai, diciamo. Ma vedrete che Netflix lo farà. Io spero di no, anche perché secondo me non c'era bisogno neanche di questo. Però vabbè, questo è il periodo dei revival, allora va bene, lo possiamo anche accettare. Però vabbè, addirittura rifà una nuova serie, boh, non lo so, insomma. Però vabbè, Netflix ci sta sorprendendo ultimamente, a parte che se andate su Netflix sfornano, cioè, come dico io, sì, cagano, sì, serie a rotta di collo oramai. Tira fuori serie ogni ora praticamente, quindi è veramente... Noi sosteniamo l'abbonamento a Netflix. Assolutamente, assolutamente. Io poi consiglio anche un altro telefilm, che è quello The Get Down, cioè fantastico, bellissimo. Sono lì che aspetto la seconda stagione del 2017, la bramo come nient'altro al mondo, insomma, bellissimo, veramente Netflix si è superato. Come specchio le mie brame, insomma. Yes. Allora, a questo punto noi ci ascoltiamo l'ultimo brano e torniamo per i saluti finali, sì, dandovi anche indicazioni su quella che è la prossima programmazione Runtime Radio, e poi ci vediamo alla prossima, giustamente. Però partiamo col brano. Intanto ascoltiamo i Beatles. Un po' di Beatles, che ogni tanto non è che ci fa proprio male, male, male, ok? Ci sentiamo fra poco. Quindi abbiamo ascoltato una canzone mitica, storica, che praticamente ha fatto la storia della musica e del mondo, ovvero A Day in the Life, una delle meraviglie, delle sette meraviglie dell'universo. Bellissima. Bene, allora ragazzi, noi siamo arrivati alla fine di questo episodio, che insomma ci fa sempre piacere noi stare insomma insieme a voi. Ci dispiace se ogni tanto manchiamo, questa è comunque l'ultima puntata dell'anno per quanto riguarda Everything, quindi da gennaio cercheremo di essere un po' più frequenti, quindi ne approfittiamo anche per fargli gli auguri di Natale e di buon anno da parte mia e di Michela per quanto riguarda questa trasmissione, giustamente, giusto Michela? Giustamente, assolutamente vero. E rigorosamente. Bene, detto questo, ricordatevi sempre che Everything lo trovate su Facebook andando a cercare la relativa pagina. Se non la trovate, la potete trovare anche tramite la pagina di Runtime. Fate mi piace in entrambe le occasioni. Cercate anche Runtime Music, che è un gruppo aperto, però bisogna comunque chiedere l'iscrizione, e dove praticamente vengono racchiusi tutti quanti i programmi musicali di Runtime Radio. Lì ovviamente potete essere informati su quando escono i vari live e soprattutto quando escono anche le versioni in podcast, e si può anche discutere, suggerire brani musicali, tendenze e quant'altro. Ma potete fare anche dediche, tipo sono Fabrizio e voglio dedicare a Farfallina Ciccipo Amoroso la canzone Trottolino Amoroso bella, che noi ovviamente casseremo perché chiaramente noi abbiamo un minimo indispensabile di qualità per quanto riguarda ovviamente la nostra radio. Bene, e quindi da me e da Michela questo è tutto, quindi come ho detto abbiamo un buon anno e buon Natale, però prima di lasciarvi buon Ferragosto soprattutto, e ricordate ovviamente come abbiamo detto questa è la puntata che dà l'esordio praticamente a questo speciale palinsesto di Runtime Radio per le feste natalizie, che è veramente stra colmo. Quindi cioè, Michela, abbiamo un minuto libero, esatto, lasciateci in pace pure un pochino, fateci vive, ecco. Allora abbiamo cominciato noi con questa bellissima puntata a volare Bobo, che questo titolo c'è, cioè, veramente qualcuno ci ha chiesto, forse Santilio ci ha chiesto quanto paghiamo il nostro titolista. Io me l'ho insultato chiaramente perché ha detto quindi io poi insulto a casaccio. Fantastica. E domani ci sarà il nostro mitico Giuseppe Saso con l'occhio del Beholder, che ci farà gli auguri con il suo giochi di ruolo sotto l'albero alle 21, sempre alle 21, non sempre, comunque domani alle 21 appunto, okay, bravo. Dicembre Alex Raccuglia torna, tanto per cambiare, con MDB Summer Radio, perché ormai vive dentro Summer Radio Alex, noi lo sappiamo, è scatolato lì, con una bellissima puntata dal titolo Ctrl C Ctrl V. Ma ti sei sbagliato oppure? No, è così. Ah, ecco, perché mio marito li fa di questi errori. E il 20 dicembre alle 21 Videoludica Podcast torna con la storia sempre di Simone che riceve il VIC-20 e che scappa. Non è quello. Comunque ascolteremo sempre live quando li chiamavano ancora Engine. Scusate, okay. Scusate, non sono avvezza a queste cose. E basta leggere quello che è scritto. È scritto Engine. Vabbè, Engine, ho sbagliato a scrivere. Ok. Vai. Allora, il 21 dicembre c'è il bellissimo programma Rocket Balloon con lo speciale di Natale alle ore 10? Sì, alle ore 10 di mattina. Di mattina, in live, diretta live, ok. Non è in diretta live, ma è comunque l'evento perché... Ma è di domenica, il 21? Okay. No, non è di domenica. Ah, ok. E il 21 dicembre alle 21.12? Certo, perché 21.12 alle 21.12. Quante le sappiamo? Mamma mia, quanto, di Runtime Radio. Quanto siete sofisticati. Esatto. E ci sarà Calavera Caffè con il podcast delle avventure grafiche con lo speciale di Natale. Benissimo, è anche questo live, quindi anche questo live, importante. Quindi segnatevelo, oh, vi state a segnare l'agenda, se no se mi date tutte le vostre mail. Ma lo trovate comunque tutto nella pagina di Runtime Radio. Il 23 dicembre alle ore 21.15 gli speciali di Runtime, Multimanie, miniserie, episodio finale, l'ennesimo episodio finale di Multimanie. Esatto. Che ovviamente con me, Luca Casciola e Marco Gualdi. Il trentesimo episodio finale di Multimanie. E Gianni Aureli, che ovviamente faremo questa puntata finale, ovviamente non potremo che parlare del Natale. Il 27 dicembre, dall'alto dei nostri cuori, dopo che vi siete fatti un bel Natale e avete bestemmiato contro tutti i parenti, arriviamo noi, arriviamo io e Alex, quindi io con il mio mono e Alex con MDB Summer Radio, in un crossover fantastico, bellissimo, che tutti ci invidieranno e che... Come si intitola? Christmas Christopher. Christmas. Io devo dire, cioè, spero vivamente di rendere onore a tutti gli anti Natale che ho passato da ragazzina ai vari Cube, Alfeus, eccetera eccetera, perché veramente mi hanno insegnato a vivere la vita nel modo giusto. Hai capito che storia. E poi c'è l'ultimo appuntamento di questa serie natalizia. Last but not least, morti di bestemmie con morti di Natale. Esatto, non poteva assolutamente mancare. Quindi il 28 dicembre alle 21. Alle 21. Vi ricordiamo sempre di ascoltarci su www.runtimeradio oppure .runtimeradio.it, oppure ci cercate ovviamente su Facebook, ci sono anche i vari relativi gruppi Telegram sulle varie trasmissioni, ma cercate le pagine, ma soprattutto Runtime Music, che è il gruppo dove vengono racchiuse tutte quante le trasmissioni musicali. Poi ci sono anche gli altri gruppi, ma li diremo insomma anche nelle altre trasmissioni, perché poi sono tematici per gruppo d'ascolto. Detto questo, vi ringraziamo ancora una volta, ci vediamo a gennaio con Everything, parleremo un po' di varie cose, delle bollette del gas, dei cazzi nostri, sempre come sempre ovviamente, e vi lasciamo con l'ultimo brano e vi facciamo gli auguri di buon Natale e buon anno da me e da Michela. Allora vi lasciamo, intanto io vi faccio ancora i miei auguri, perché tanto con me vi sentirete soltanto dopo Natale, quindi mi raccomando, passate un Natale pieno di solitudine. Molte spumo, No, pieno di solitudine e grazia. Pieno di solitudine. Sì, perché i parenti stressano. I parenti serpente. No, stressano, per carità, possono essere pure brave persone, però stressano. E ragazzi, divertitevi, fate un buon Natale e che sia veramente una giornata speciale, al di là di quanti parenti dovrete sopportare. Andiamo con l'ultimo brano? Andiamo con l'ultimo brano, ascoltiamo i Foo Fighters e vi saluto con un po' di sprint rocchettaro e ascoltiamo il meglio di tutti voi, il meglio di tutti noi, ascoltiamo The Best of You. Bene, allora ci salutiamo, ciao, alla prossima, ciao ciao ciao ciao ciao. The best. Were you born to resist?